E Scave Acqua Più è l'unico che dà tre ducce al mismo tempo con acqua caliente sempre. E Scave Acqua Più, mucho más que un termotanque. E Scave. Felicità.